Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Inaugurata la Fiera di Udine, l'edizione 2024 di Casa Moderna, che ospita 150 espositori, una sezione dedicata anche all'artigianato made in Friuli Venezia Giulia. Stanziati 470.000 euro per i lavori urgenti per ripristinare la viabilità tra Pulfero e Mersino nelle valli del Natisone, dopo i due eventi franosi di ieri. Sopralluogo questa mattina dell'assessore Riccardi assieme ai tecnici della Protezione Civile. Partirà a giorni la bonifica dell'amianto dal Cellina. Tra Magnago e Montereale il consorzio di bonifica ha messo a disposizione dell'intervento 850.000 euro e affidato i lavori. A giorni parte la patente a punti nell'edilizia e il settore, secondo la CGA di Mestre, è quello con il miglior incremento di infortuni sul lavoro in un anno. I materiali meravigliosi, il premio Nobel per la fisica Game e l'Oscar Piovani, protagonisti della giornata di Next. Il coraggio di accettare il dolore altrui e rinunciare alla vendetta. La vicenda di due padri, uno palestinese e l'altro israeliano, sarà in scena questa sera a Paluzza per Vicino Lontano Mont. Nostra intervista con l'ideatore dello spettacolo, Massimo Somallino. Nei prossimi 9 anni il trasporto pubblico locale potrà rinnovare il proprio parco mezzi con l'acquisto di 77 bus ecologici, elettrici, a idrogeno e a metano grazie a 43 milioni di euro del PNRR. L'Udinese in cerca della riscossa dopo la delusione contro la Roma alle 15 al Friuli contro l'Inter. Buongiorno da Andrei Marusic e Nada Ciocchi. In apertura di questo giornale radio la cronaca con una notizia di un fatto appena accaduto al rally della Carnia durante le prove fra Casanova e Fusea nel comune di Tolmezzo. Un'auto è uscita di strada investendo due persone in modo grave. Il pilota trevigiano Mattia Zanina alla fine della prova speciale Valle di Lauca ha perso il controllo del mezzo, ha travolto la fotocellula del cronometraggio sbandato e definito su un gruppo di spettatori. I soccorritori sul posto in un primo momento hanno parlato di due feriti in modo grave. Certo che una persona del pubblico ha subito un trauma cranico, è stato intubato ed è stato trasportato all'ospedale di Udine in codice rosso. Un'altra persona è ferita ma in modo meno serio ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Tolmezzo. Le notizie sono ancora in aggiornamento. Con il nuovo payoff Il Gusto di Vivere si è inaugurata poco fa la 71esima edizione di Casa Moderna, che ospita nel quartiere fieristico di Udine 150 espositori e 50 marchi di arredamento e design. Antonio Di Piazza, presidente di Udine e Gorizia Fiere, ci parla delle novità di quest'anno. Si inaugura questa 71esima edizione con una grossa novità. Questa novità si chiama Saperi e Sapori FVG. Di cosa si tratta, Presidente? È una grossa novità ed è una novità che deriva un po' da un'idea avuta dall'assessore regionale Sergio Emilio Bini di ritorno dalla nota kermesse in quel di Milano, il Mercante in Fiera, e giustamente, visto che lì vi era una presenza copiosa di nostri artigiani, ha ritenuto opportuno di proporre a Confartigianato, che ha subito accolto quest'idea, di realizzare un qualche cosa anche qui in Friuli Venezia Giulia proprio con le nostre eccellenze. Da qui l'idea appunto di associare Saperi e Sapori nella sua prima edizione a Casa Moderna. Quest'anno forse cambiano un po' più i rapporti di forza fra gli espositori, un po' meno arredamento, un po' più tecnologia, come mai? Beh, c'è sempre di più la ricerca di qualche cosa che serva nel risparmio energetico, nell'efficientamento energetico. Ecco che all'interno dei nostri padiglioni troveremo sempre maggiori presenze di pannelli solari, stufe e tutto ciò che serve per il risparmio energetico e per far sì che la nostra casa possa essere più vivibile e più confortevole. Ricordiamo Casa Moderna aperta nel weekend alle 10 alle 20, mentre dal lunedì al venerdì stand aperti dalle 14.30 alle 20. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pulfero, nelle valli del Natisone, sono già iniziati ieri i lavori per la riapertura e la messa in sicurezza della strada comunale che porta alla frazione di Mersino, interessata da due frane che hanno imposto la chiusura dell'arteria. Questa mattina l'assessore Riccardi ha effettuato un sopralluogo con il direttore della Protezione Civile Aristei, ha firmato un decreto che stanzia 470.000 euro per due interventi di somma urgenza indifferibili per la messa in sicurezza della strada comunale. Nella sede del comune di Pulfero, assieme al sindaco Camillo Melissa, è stato fatto un primo punto rispetto alla situazione. La viabilità interessata dalle due frane, riferisce Riccardi, serve la comunità di Mersino, dove risiedono circa 80 persone e dove è attivo anche un pubblico esercizio. L'interruzione di questo tratto non comporta l'isolamento della frazione, ma per i suoi abitanti la strada è fondamentale per raggiungere agilmente San Pietro Natisone, quindi Cividale del Friuli, per lavoro e per ogni necessità. Il tratto alternativo richiede invece un percorso molto più lungo di circa 15 chilometri verso l'area del Monte Matajure e la frazione di Monte Maggiore attraverso il territorio comunale di Savonia. Il Cellina invece ha procurato notevoli disagi nel comune di Barcis che sono perdurati fino a stamattina. I sedimenti trasportati dal fiume in piena hanno invaso la statale 251 della Valcellina, bloccando una carreggiata all'altezza del rio Arcola. La viabilità in entrambi i sensi di marcia è stata ripristinata da una ditta locale. L'amianto sparpagliato tra i sassi del Cellina, a cavallo di Magnago e Monte Reale, sarà rimosso a breve. Il consorzio di bonifica Cellina Meduna ha infatti appaltato ad un raggruppamento di aziende venete il tanto atteso intervento di asportazione del composto industriale scaricato in enormi quantità sul greto quando ancora l'utilizzo di questo materiale era consentito. Un'operazione dal costo di 850.000 euro. I lavori, salvo imprevisti da maltempo, partiranno tra qualche giorno. Siamo infatti nel periodo dell'anno in cui l'avifauna è meno sensibile al via vai di mezzi. Il cantiere dovrebbe terminare entro la fine dell'anno. Il consorzio stima che le risorse a disposizione consentano la pulizia di 2 o 3 cumuli al massimo. Tutto però dipenderà da cosa concretamente si troveranno dinanzi gli esperti una volta tolti i teloni di protezione dei depositi mappati e catalogati nel corso delle scorse settimane. Trattandosi di materiale contaminato da amianto, tutto ciò che verrà asportato dal letto del fiume dovrà essere inertizzato e spedito all'estero. Significa che insieme alle fibre di asbesto saranno smaltiti in un unico blocco sassi, terra e altri eventuali rifiuti mescolatisi nel tempo. In Italia non esistono discariche autorizzate a ricevere questa particolare tipologia di scarti. L'appaltatore dovrà quindi trovare un intermediario internazionale che trasferisca oltre confine le big bag prelevate a Magnago e a Montereale Valcellina. Le spese di trasporto incideranno sui quantitativi che potranno essere prelevati. Sicurezza sul lavoro, sono in calo le morti bianche ma aumentano gli infortuni. Tra gennaio e luglio di quest'anno si sono registrati 10 decessi in tutti i luoghi di lavoro della regione, 5 in meno rispetto ai primi 7 mesi del 2023. Gli infortuni invece ammontano a 9.364 con un incremento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le situazioni più preoccupanti si osservano nelle province di Udine e Pordenone con rispettivamente 5 e 3 denunce di infortuni mortali, segnala la CGA di Mestre. Trieste e Gorizia registrano un solo caso ciascuno. I cantieri risultano essere i luoghi di lavoro più a rischio. Gli infortuni nel settore delle costruzioni sono aumentati del 20% con 595 infortuni contro i 494 del 2023. A livello nazionale l'aumento medio si attesta al 15%, tuttavia nei cantieri della regione si è verificato un solo incidente mortale fino a luglio rispetto ai 2 dello stesso periodo dello scorso anno. Sono necessari più controlli. Anche la CGA di Mestre sottolinea l'importanza di ridurre gli aspetti burocratici e di essere più rigorosi nei confronti di chi, ad esempio, monta male un ponteggio. Critiche sono state rivolte alla patente a crediti per i cantieri, per la quale oltre 150.000 imprese del comparto edile, di cui 15.000 solo in regione, dovranno fare richiesta a breve. Oltre al click day del 1 ottobre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha concesso la possibilità di presentare la domanda tramite PEC entro la fine del mese prossimo. In caso contrario, le imprese non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili a partire dal 1 novembre. Il Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione 43 milioni di euro del PNRR per l'acquisto di 77 autobus ecologici, di cui 26 elettrici, 15 alimentati a idrogeno e 36 a metano. Un'operazione che ci consentirà un grande rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico regionale da qui al 2033, ha detto l'assessore Amirante, spiegando che alle linee urbane sono destinati bus a idrogeno ed elettrici, mentre alle linee extraurbane saranno destinati bus a metano, che consentono di raggiungere anche località di montagna senza problemi di ricarica. All'ambito territoriale di Gorizia andranno complessivamente 27 mezzi, per il territorio di Pordenone è prevista l'introduzione di 27 bus a metano nelle linee extraurbane, mentre per l'ambito di Trieste si acquisteranno 23 bus elettrici per il servizio urbano. Una notizia di cronaca: furto in casa a Sacile ieri sera. I ladri sono entrati nell'abitazione della tesoreria della Proloco e con una flex hanno aperto la cassaforte, portando via circa 16.000 euro in contanti, di cui 10.000 euro provenienti dalla sagra di Sacile. Indagano i carabinieri, che sospettano che i ladri fossero a conoscenza delle abitudini della tesoreria. Protagonista della giornata odierna di Next, il grafene, materiale bidimensionale che deve la sua scoperta alle ricerche del Nobel per la fisica Andrei Geim, che parlerà di materiali meravigliosi. È la giornata dei premi, quella di oggi a Trieste Next, il festival della ricerca scientifica in corso da ieri, nel senso che oggi saranno a disposizione del pubblico un premio Nobel e un premio Oscar. Il primo è Andrei Geim, russo naturalizzato olandese, fu insignito del riconoscimento dell'Accademia delle Scienze di Svezia nel 2010, assieme a Konstantin Novosielov, quando entrambi lavoravano all'Università di Manchester, per i pionieristici esperimenti riguardanti il materiale bidimensionale chiamato grafene. L'incontro col professor Geim si intitola Wunder Materials, materiali meravigliosi, e si terrà al Teatro Verdi alle 15. Assieme al Nobel, il professor Alessandro Baraldi, docente di fisica sperimentale della materia condensata all'Università di Trieste. Il secondo è il compositore Nicola Piovani, Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella. La serata evento ha per titolo Scienza e musica e affronterà le questioni della creatività nell'arte, nell'epoca dell'intelligenza artificiale generativa, capace cioè di creare testi, immagini, spartiti, formalmente nuovi, pur sfruttando algoritmi, banche dati e codici statistici, anche in questo caso al Teatro Verdi alle 21. Intelligenza artificiale al centro anche dell'incontro col professor Michael Irving Jordan, docente di ingegneria elettrica e informatica e di statistica all'Università di Berkeley. Una vita fra la California e Trieste, perché la moglie è triestina, è vincitore del premio World Laureates Association per l'informatica e la matematica. A Next, ospite della TUAS, l'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo, è presente il Ministero degli Esteri, perché la pace passa anche attraverso i contatti fra scienziati, il capo ufficio scienza della Farnesina, Alessandro Garbellini. Assolutamente, lo vediamo, Trieste è la città della scienza, da 60 anni ospita grandi centri di ricerca internazionali che hanno saputo avvicinare gente da tutto il mondo. Antonio Caiazza, Trieste, Next, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una femmina di Lince e Luna è stata rilasciata nella foresta di Tarvisio dai carabinieri forestali del raggruppamento Biodiversità nell'ambito del progetto europeo Azioni Urgenti di Conservazione della Lince. Il maschio territoriale Flori potrà così accoppiarsi con una femmina non imparentata, aumentando la diversità genetica della lince nell'area. Luna è nata nel maggio 2023 in un bioparco specializzato sui felini in Germania. Potenzialmente potrà avere la prima cucciolata nel 2025. Tutte le linci attualmente presenti nelle Alpi sudorientali italiane sono nate da linci reintrodotte in seno al progetto europeo Lifelinks. Dal 2021 al 2023 sei linci sono state rilasciate nelle Alpi sudorientali slovene per creare una popolazione passerella in grado di espandersi e di collegarsi alla popolazione dinarica. Inoltre, 5 linci sono state rilasciate nelle Alpi sudorientali italiane. Da queste reintroduzioni sono nati almeno 16 piccoli in 7 cucciolate. Urban Nature, la festa della natura in città del WWF, propone due eventi. Oggi Udine sarà teatro di un viaggio esplorativo nel cuore della biodiversità urbana presso il giardino del Museo Friulano di Storia Naturale, che parte alle 14.30 in un ambiente ricco di sorprese. Si potranno scoprire le varietà di specie che popolano le città e riflettere sul delicato equilibrio tra uomo e natura. A Trieste invece ci sarà una passeggiata nel Bosco Farneto organizzata da Lipu Trieste in collaborazione con WWF. Per scoprire la biodiversità urbana ci sarà la possibilità di imparare quali animali vivono nelle vicinanze della città e discutere su cosa si può fare per rispettare e aumentare la biodiversità cittadina. Ritrovo alle 15 presso la rotonda del boschetto. Inaugurato a Trivignano Udinese presso la sede del centro civico il nuovo infopoint diabetologico di comunità. Il servizio gratuito è gestito da volontari e destinato a tutti i cittadini con la funzione di informare la comunità rispetto ai segnali che può dare il diabete, in modo tale da individuare tempestivamente l'insorgenza della malattia, inserendosi pertanto in un ambito di prevenzione primaria. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Tuniz, il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dei Caporale, la direttrice Elena Revelante e il medico Marco Scarbolo del distretto sanitario e Dario Andrian per l'associazione Famiglie Diabetici. Siamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature registrate poco fa, Trieste 22 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con temperatura di 21 gradi e mezzo, Gorizia 23 gradi e 5 decimi, Pordenone 23 gradi, Udine 22 gradi e mezzo, Tolmezzo 12 gradi e mezzo, Torvisio 12 gradi, Piancavallo e Fondi di Sopra 11 gradi e 5 decimi, Sappada 7 gradi, Sullussari 4 gradi, sullo Zoncolan 2 gradi, a Lignano 22 gradi e 5 decimi, a Grado 21 gradi, la temperatura del mare nelle due località è di 21 gradi. Le previsioni dell'ARPA: nel pomeriggio avremo rovesci e temporali e soffierà vento sostenuto in prevalenza da nord, possibili locali raffiche anche forti. Verso sera le temperature scenderanno sensibilmente e sulla costa soffierà bora sostenuta. Domani tempo stabile con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature minime in netto calo. 12.47, la pagina della cultura. Il Ministero della Cultura ha reso noto che sono 17 le città che hanno perfezionato la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027, dopo aver presentato la proposta progettuale entro la scadenza del 26 settembre prevista dal bando. Tra questa c'è anche Pordenone, che dovrà concorrere con Pompei, Alberobello, Gallipoli, Savona, Mazzarino, Brindisi e altre 11 città. Uno spettacolo di grandissima attualità, Salam Shalom, due padri, di e con Massimo Somallino e Alessandro Lussiana, che va in scena a Paluzza questa sera per Vicino Lontano Mont. La vicenda umana, tratta dal libro Apeirigon di Colum McCann, mette di fronte due padri, l'israeliano Rami Elhanan e il palestinese Bassam Aramin, accomunati dallo stesso destino, la perdita delle proprie bambine uccise dalle armi del popolo dell'altro. I due affrontano il proprio dolore con estremo coraggio, confrontandosi nella reciproca comprensione contro la tentazione della vendetta e la trappola dell'odio perpetuo. Ne abbiamo parlato con Massimo Somallino. Più che perdono, parla di un grande percorso di dolore. Credo che accettare il dolore, viverlo direttamente fino in fondo, sconfiggerlo per poi comprenderlo, sia un po' la chiave che portano in scena questi due padri che raccontano la loro storia. In realtà senza un vero bisogno di perdonare, il perdono non è nemmeno contemplato, è proprio l'accettazione di un percorso e di un viaggio che è l'unica strada possibile per raggiungere la pace. Cosa prova in questi giorni? È sempre più difficile portare in scena questa vicenda, probabilmente. Sì, ma è anche sempre più necessaria, perché è l'unica via, perché è un primo passo. Qualche volta mi viene da pensare che in realtà la realtà, cioè la realtà delle persone vere, fisiche, non dei leader, non dei giornalisti, le persone che queste cose la soffrono sulla loro pelle, compiono spesso dei primi passi. Il problema è che non sono mai seguiti da dei secondi passi. Cioè queste loro azioni, come l'azione di questi due padri, che accettano il loro dolore, accettano di trasformarlo in una amicizia, è un primo passo che non viene mai accolto poi, non dà vita a un secondo o un terzo passo, perché dovrebbe essere sostenuto dalle strutture, dalle istituzioni e da tutto il mondo che ci gira intorno. È sempre più necessario che ci siano sempre più rami e sempre più Bassam. Sì, ma secondo me ci sono, il problema è dargli voce. Nuovo appuntamento ieri per la stagione sinfonica del Verdi di Trieste, in programma due brani molto famosi e amati dal pubblico, la Sinfonia Spagnola di Lalo con Sergei Krylov e i quadri di un'esposizione di Mussorgsky nell'orchestrazione di Ravel. L'energia originaria della musica popolare iberica vista con le lenti di un elegante compositore francese che la adatta alle esigenze e ai gusti del suo pubblico di riferimento, quello della Parigi di fine Ottocento. È la Sinfonia Spagnola per violino e orchestra di Édouard Lalo che dopo 150 anni esatti continua ad essere una pagina favorita dalle platee e anche dai virtuosi che hanno gioco non troppo difficile nel mettere in mostra potenza di suono, agilità e precisione, tutte doti in pieno possesso di Sergei Krylov, il pluripremiato violinista russo, protagonista del concerto con cui prosegue, dopo il festival in collaborazione con la Società dei Concerti, la stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste. Krylov si è concesso come bis una sarabanda di Johann Sebastian Bach per poi lasciare spazio all'orchestra del Verdi diretta da Hans Graf e anche qui pane per i denti degli strumentisti alle prese con i quadri di un'esposizione di Mussorgsky che sono già un capolavoro nella versione pianistica e che sono fenomenali nella celeberrima trascrizione di Maurice Ravel che richiede la maggior potenza possibile ma anche la massima ricchezza di sfumature al maestro e ai singoli musicisti. Prossimo appuntamento è il 5 ottobre, tutto dedicato alla musica tedesca. Dirige Hartmut Henken con il doppio concerto di Brahms con Milenkovic e Pagano e con la quarta sinfonia di Robert Schumann. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 12:51 minuti, lo sport ritorna alla Serie A con la sesta giornata di campionato. L'Udinese affronterà in casa l'Inter, fischio d'inizio alle 15. La squadra di Runia Ice è reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana per 3-1, ma pesa ancora lo scivolone esterno contro la Roma di domenica scorsa. A sua volta anche l'Inter è reduce della sconfitta del derby. Inzaghi dovrebbe provvedere ad un ampio turnover, Frattesi sostituirà Barella, in attacco ancora Lautaro Thuram. L'Udinese invece si affiderà di nuovo al 3-4-2-1 in attacco con davanti il trio Tauvin, Brenner, Luca. Ancora indisponibili Giannetti, Camara, Christensen, Pagero, Pizzarro e Sanchez. Ciclismo, parte a minuti la corsa ciclistica più antica del Friuli, inserita nel calendario nazionale per la categoria juniores. La Coppa San Vito al via, sono attesi 140 ciclisti. Il percorso 130 km complessivi prevede, dopo la partenza da Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, il trasferimento a Casarsa per il vero start, da lì il passaggio in diversi comuni delle terre del Tagliamento per tornare a San Vito. Basket, i campionati di Serie A1 e A2 al via questo fine settimana. La Pallacanestro Trieste parte domani alle 12 al Palarubini contro l'Olimpia Milano. In campo sempre domani anche Apo e Gesteco. Dopo un anno di purgatorio da film, con una stagione mediocre, culminata però con l'incredibile cavalcata ai playoff, la Pallacanestro Trieste è tornata in paradiso. Il calendario regala subito la più affascinante delle sfide. Esordio contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, freschi vincitori della Supercoppa e protagonisti con un mercato mirato per primeggiare anche in Europa. Il Pala Trieste sarà gremito, quasi 4.000 gli abbonati, i presenti supereranno quota 6.000 nell'anticipo di mezzogiorno di domani. L'effetto scenico è garantito. I ragazzi di Cristian sono reduci da un precampionato a due facce, bene la prima parte, poi si è scelto di tener fermi i giocatori con qualche acciacco e sono arrivate sconfitte in serie, anche di proporzioni importanti. Sicuri i rientri di Ross e Brown, due dei tre acquisti più costosi, rimane in dubbio la presenza di Reyes, eroe della promozione, che deve gestire ginocchia fragili. L'obiettivo, viste le spese effettuate sul mercato dal nuovo proprietario Paul Matiasic, è il raggiungimento dei playoff, non scontato, visto la concorrenza e visto lo stile di gioco. Contro i campioni d'Italia da sfavoriti, può essere una chiave proprio il modo di stare in campo, prendersi il primo tiro disponibile, possibilmente da tre punti, e provare a difendere meglio, sperando in una giornata storta dei campioni di Messina. Domani inizia anche la Serie 2. Cividale comincia in casa contro Forlì, squadra leggermente rinnovata che da anni prova il salto di categoria. La Gesteco ha tenuto il gruppo storico e cambiato praticamente soltanto l'americano, dentro il veterano Marx. Per la stagione nel mirino una salvezza comoda in un campionato della Formula Nuova. Girone unico da 20 squadre, 38 giornate di cui 7 infrasettimanali, una promozione diretta, una ai playoff e ben 3 retrocessioni. Il campionato dell'AP Udine incomincia invece fuori casa. I bianconeri, che puntano sempre alla promozione ma senza assilli, partono da Rimini, società che ha speso molto e ha mire ambiziose. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La nostra rubrica Vita nei Campi va in onda domani dopo il GR delle 8.30. Sentiamo gli argomenti che tratterà. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura un'intervista con i professori dell'Università di Udine che hanno progettato la nuova vigna del Papa a Castel Gandolfo. A seguire la storia di Angelo Floramo ci descrive una delle figure notevoli della società contadina, il veterinario. Nella rubrica di macchine il rapporto non sempre equilibrato tra meccanizzazione e terreno. E ancora, seconda scheda del nostro sommelier per i vini con protagonista la ribolla gialla macerata. È uno dei principali e validi alleati per chi fa la marmellata, la pectina. La chiamano la pianta delle lanterne cinesi e il coreografico al Kekenji. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E con questo chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Andrei Marusci, Cenada Cioc, con la collaborazione tecnica di Giuliano Pecorari, Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.